la versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori Radio 24, in diretta qui dagli studi di Milano, 16.35, anzi 36, tra 3 secondi di questo lunedì 24 di novembre. Ve lo dico subito, telefonateci all'800 24 0024, oggi è presque inevitabile, dobbiamo chiedere il vostro commento, più importante del mio. Quindi comunque la pensiate, telefonate sulle elezioni regionali che sono tenute ieri in Calabria e in Emilia Romagna, in particolare, ma ripeto, vale qualunque sia la vostra opinione, siate persone che hanno votato o non hanno votato in quelle due regioni, oppure che voterebbero o non voterebbero in tutte le altre regioni, come la pensate sull'interpretazione del dato del massiccio astensionismo? Perché in effetti che in Emilia Romagna si vada a votare meno di 4 su 10 rispetto alle tradizioni di quella regione è un dato fortissimo. È vero che siamo in una tendenza di diminuzione, voto per voto, politiche amministrative europee, di diminuzione del tasso di partecipazione, però lì è una cosa clamorosa. Poi, condividete o meno quello che ha detto Renzi stanotte, cioè un dato secondario l'abbassamento della partecipazione così rilevante al voto, quello che conta è che il PD continua a macinare, regione dopo regione vince il PD e ne ha strappate quindi altre, o meglio la Calabria, perché l'Emilia Romagna è tradizionalmente sua, ma in realtà voto dopo voto regionale oramai sono 15 quelle del centro-sinistra, al centro-destra restano le due regioni Lombardia e Veneto guidate dalla Lega e solo la Campania per Forza Italia con Caldoro. Oppure siate ex o attuali ancora elettori del centrodestra, pensate che il risultato di Salvini, che è più che doppio rispetto a quello di Forza Italia, rispetto al 30% che porta a casa il candidato della Lega in Emilia Romagna, sia il segno che c'è un centrodestra completamente diverso da quello che resta dei sogni di Berlusconi, è una tendenza netta, una specie di OPA sul centrodestra, oppure no? E sia un successo molto invece trainato da quello che accade al Campo Roma, Bologna e così via. Insomma, diteci come la pensate, senza metterci ovviamente a immaginare immediate traduzioni sulla politica nazionale, pur tuttavia si tratta di dati su cui riflettere molto molto molto attentamente. Io vi dirò che alcuni colleghi, per esempio Gianni Riotta e così via, questa mattina hanno commentato dicendo: ma in definitiva un abbassamento così rilevante della partecipazione al voto non è poi una cosa così paradossalmente preoccupante, perché democrazie mature che hanno una storia secolare di voti più consolidata della nostra vedono partecipazioni al voto molto più basse delle nostre, come nei paesi anglosassoni, negli Stati Uniti, la Gran Bretagna. Sì, però, dico io, quando c'è una tendenza all'abbassamento, ma c'è un gradino così forte come quello che si registra in questa consultazione, secondo me bisogna porsi il problema. Io non sono un sostenitore dell'obbligo di votare, perché secondo me, come si vede, il non andare a votare esprime comunque un'opinione molto forte, tant'è che siamo qui a parlarne. Io credo che sia un mix di due cose fondamentali, cioè il fatto che gli italiani continuano a soffrire moltissimo dal punto di vista economico e del reddito, e secondo me si grattano molto la testa sul fatto che le spese e le tasse continuano a essere in salita entrambe. Poi c'è un fenomeno di disaffezione rispetto all'offerta politica così come essa è oggi, non tanto vi dirò per la sinistra e Renzi, perché come vedete poi nei risultati sta a una soglia rispetto ai partecipanti più bassi, ma di maggioranza bella netta per così dire, quanto dalle altre parti rispetto alle opposizioni. E quindi tanta gente, sommando le due cose, secondo me non partecipa. Intanto abbiamo già una chiamata, Gianmario da Roma, sentiamo come la pensa Gianmario, prego. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Io, semplicemente leggendo anche ieri su Twitter, vedendo tutti i giornalisti, i suoi colleghi commentare le elezioni, non ho capito una cosa, ma sì, chi non ha votato vale più di chi ha votato? Perché è vero tutta, diciamo, questa manfrina sull'astensione, però qui c'è un risultato netto, sì, che il PD vince tutte le elezioni possibili e immaginabili, sì, governa 15 regioni su 18, 21 dei primi 22 comuni d'Italia. Di che cosa stiamo parlando? Oggi leggevo che Brunetta diceva: Renzi sprofonda, Lei lo sa che la Brunetta lo diceva, ma in realtà anche i giornali oggi lo scrivono, guardando al totale dei voti raccolti rispetto alle elezioni regionali precedenti, è ovvio che con un tasso di partecipazione molto più basso, praticamente tutti, chi più chi meno, questo però non riguarda i 5 Stelle in Emilia Romagna per esempio, portino a casa molti meno voti di quanti non avessero preso la volta scorsa, quindi solo per dire il perché, poi credo anch'io che il dato politico sia quello che dice lei. Dal suo punto di vista però la questione della valanga di astenuti che senso ha, Gian Mario? Beh, innanzitutto non c'è competizione, tutti quanti sapevano prima chi avrebbe vinto il Partito Democratico sia in Emilia Romagna che in Calabria, e la seconda è che l'unico partito che resiste paradossalmente è il Partito Democratico, che è l'unico partito vero strutturato sul territorio che nonostante tutto riesce a mobilitare i propri tifosi. Se le chiedessi un'interpretazione dall'altra parte del fenomeno Salvini-Lega che doppia Forza Italia in Emilia Romagna e insomma nei sondaggi è bello forte anche nel resto d'Italia rispetto a Forza Italia, secondo lei cosa vuol dire? Bah, secondo me diciamo è un po' come Renzi che vince le elezioni in contumacia, così Salvini è il leader del centrodestra in contumacia, non c'è nessuno, lui grida più di tutti e alla fine fa notizia, rimbalzato dai media, e chiaramente c'è stato solo lui. Gian Mario, un'ultima domanda le faccio, sì, perché così facciamo parlare voi oggi, perché poi ci sono tante altre telefonate. Secondo lei gli esponenti del PD, che fin da stanotte sono quelli della minoranza chiaramente, sì, dicono a Renzi, no guarda che qui perdere tutti questi voti dove noi avevamo una base solidissima in Emilia Romagna ci dice del nostro partito, lo fanno strumentalmente o hanno qualche ragione ce l'hanno? Beh, che la minoranza del PD, che non ha vinto un'elezione per 20 anni, oggi si mette a fare gli sporoni vicino a Renzi che vince tutte le elezioni da un anno, veramente insomma è ridicolo. No, che loro mi pare abbiano... che Gian Mario hai espresso un pensiero molto netto, è chiaro, e ti ringrazio. Cristiano da Vicenza, sentiamo te. Sì, buongiorno. Buongiorno. Senta, secondo me innanzitutto un commento sulle democrazie mature, no? Sì. Sulle democrazie mature vota il 30% delle persone, su quelle super mature vota solo la classe politica? No, il problema Cristiano è un altro, infatti mature non significa che abbiano più ragionevolezza di noi, mature è in ordine, diciamo così, al tempo in cui hanno messo a sperimentazione la democrazia rispetto a noi che l'abbiamo conseguita in realtà pochissimi decenni fa, quindi non era un giudizio sulla ragionevolezza. Che cosa significa in quei paesi che, a differenza della storia che abbiamo alle nostre spalle, dove tutta la Prima Repubblica, un blocco di partiti, sostanzialmente il PC e i suoi alleati, praticamente non poteva governare, non vinceva le elezioni, ma poi c'era anche un problema che naturalmente non poteva governare se non sotto banco, e poi ci si metteva d'accordo sotto banco, noi abbiamo una storia alle nostre spalle che è una storia, come si è visto anche nella Seconda Repubblica, di reciproche scomuniche, mentre invece in Gran Bretagna, come negli Stati Uniti, come nei paesi nordici, la politica non vede nemici in campo, che vengono descritti come una minaccia per l'etica pubblica, per la violazione delle leggi e così via. Quindi mature ha questo duplice significato, senza voler dire meglio di noi, anche se un po' io lo penso, a dire la verità, significa semplicemente una storia più lunga e una contesto di offerta politica non fatto sulla reciproca scomunica, e con noi non abbiamo né l'una né l'altra, per questo partecipavamo tanto di più al voto. Poi butto lì un'altra osservazione, secondo me c'è una tendenza però, come si vede, questi partiti personalizzati, e io non mi scandalizzo più di tanto, certo se poi diventa solo una persona, chiaro bisogna preoccuparsi, vincono perché riescono più degli altri a portare al voto quelli che dalla stessa parte non portano al voto, cioè nel centrodestra Salvini porta di più al voto i suoi e altri che non votavano per lui, mentre chi si presenta con Forza Italia, NCD e batte la pesca non riesce più a scaldare i propri elettori moderati, come evidente. A sinistra, nei voti in queste due regioni della sinistra, SEL eccetera eccetera, come si vede c'è una tenuta di quel 3-4% che nazionalmente in quelle regioni avevano, perché loro portano il loro tradizionale elettorato, non ne aggiungono ma lo portano sempre al voto. Nel PD quello che è evidente, seppur con partecipazioni più basse, è che molto più basse al voto generale, che Renzi porta al voto elettori che non erano del PD, e in questo il primo ascoltatore ci ha detto una cosa che anche questa volta è confermata. Sentiamo Paolo da Modena. Paolo, prego. Sì, buonasera signor Giannino. Sì. Salve, io abito a Modena, la mia famiglia è composta da 6 persone che hanno sempre votato a sinistra e che orgogliosamente, mi consenta l'aggettivo, ha deciso di non votare questa volta per il candidato. candidato del PD per l'Emilia Romagna. Quindi è stata una. Ma non ho capito voto. Però, non avete votato o non avete votato per il candidato PD? No, non siamo proprio voluti andare a votare perché motivo? Il motivo è molto semplice, perché da elettori di sinistra non ci riconosciamo nelle politiche di Matteo Renzi. Questa è una città di tradizione di sinistra, certo. Dove si è sempre sentito quasi come un dovere civico andare a votare, certo. Ma visto e considerato chi si è alternato negli ultimi 20 anni, non ce la siamo sentiti di votare il pur bravo, anche se a volte demagogico, Salvini, o le alternative che erano rappresentate da chi? Questo mi rendo conto. Le elezioni regionali, certo. Cosa hanno fatto? Le alternative, forse questo spiega perché un po' di gente non è andata a votare, conta anche il fatto, come diceva il primo ascoltatore, ma tanto si sa chi vince. Però questo di Paolo e della sua famiglia è una scelta, come vedete, ponderata da sinistra, quindi questo fattore secondo me c'è e come. La versione di Oscar. Eccoci qui, tornate in diretta, 16:47, primi 43 secondi. Commentiamo con voi, però, con le vostre telefonate e i vostri sms, il voto che c'è stato ieri: bassa partecipazione e vittoria della sinistra. Il Salvini che insomma va avanti a destra, per così dire. Questa è la sintesi estremissima del voto in Emilia Romagna. E in Calabria sentiamo altri ascoltatori. Fabio, che ci chiama dalla provincia di Piacenza, quindi anche lui era un elettore potenziale, non so se reale. Prego, Fabio. Sì, buonasera Oscar. Io e altri miei amici e la famiglia abbiamo sempre sostenuto Forza Italia alle ultime elezioni. Ieri no, le dico la verità, noi abbiamo votato per Salvini e le spiego anche il perché. Praticamente di Forza Italia non si è mai visto l'ombra di nessuno. Di nessun politico, sì. E noi andiamo in piazza, c'è lo gazebo della Lega, arriva Salvini, andiamo al supermercato, usciamo, ci sono i rappresentanti della Lega, volantini, cioè a lei casa dice si danno da fare, ci sono, vedo che questi signori o bene o male si danno da fare. Poi Forza Italia ha tentato di cambiare leader, è successo quello che è successo, il partito spaccato in due, in tre, quattro, cinque correnti, Alfano che preso se n'è andato, ha fatto un altro partito, o bene o male quello che vedo io nella Lega e ho visto, ha cambiato il leader e mi sembra che senza nessuna polemica, senza nessuno, almeno credo, però vedo che sul territorio è presente, in TV è presente. No, Fabio, se non ci fosse una parte del tratto moderato che la pensa come te e i tuoi familiari, non si spiegherebbe il voto che ha avuto Salvini in Emilia Romagna, che proprio a Piacenza, nel Piacentino, è stato il pieno, anche dalle altre parti della regione è andato avanti, sì, dovunque, però dalle vostre parti. Mi sembra che abbia preso il 30%. Esatto. 37%, quindi è una cosa di una certa imponenza, per così dire. Io mi sono stufato dopo anni di dire che i cosiddetti dirigenti del sedicente centrodestra forse dovevano capire anni fa che c'era un'offerta politica da cambiare. Vedremo questa volta, perché per il momento stanno litigando di nuovo selvaggiamente, fitto, non fitto, non dico nulla, che è meglio. Sentiamo Gianluca da Bologna. Gianluca, tu sei andato a votare o no? Sono andato a votare, diciamo di malavoglia, però ci sono andato. Sì, ti aspettavi un astensionismo così elevato, secondo te è fisiologico o invece vuol dire qualcosa? No, è agghiacciante. Cioè, per noi emiliano romagnoli è agghiacciante. E chi dice che non è niente, ma dove sta la maturità in una roba del genere? Cioè, qua stanno uccidendo la democrazia, è una cosa... Aspetta Gianluca, la democrazia o la fiducia dell'opinione pubblica nei partiti? Perché può essere che siano i partiti allora, con quello che fanno che uccidono la democrazia. Le due cose sono legate, perché la democrazia vive attraverso i partiti, sì. Se ci sono i partiti, attraverso cosa vive la democrazia. Sono d'accordo, si figuri se io voglio abolire la partecipazione attraverso i partiti. Dico che però quando i partiti, lì c'è stato il caso Errani, le spese pazze, sa meglio di me la polemica sulle primarie, quelli che erano esclusi, poi uno è rimasto fuori dall'altro, eccetera eccetera, credo che nell'elettorato anche convinto di sinistra, oltre a chi da sinistra non si riconosce nella, tra virgolette, nel tipo di politiche nazionali oggi di Renzo e così via, però una fortissima repulsa, adesso uso l'aggettivo pesante, anche un po' morale per quello che è successo in Emilia Romagna, forse ha pesato. Lei che dice, Gianluca? È così. Io sono andato, certo, ma è solo quello, secondo me, tutti che si vada a cercare ragioni, è quello, cioè hanno tradito la fiducia di noi emiliano romagnoli, punto. sono spartiti il malloppo come tutti gli altri, facendo finta di essere meglio di altri e non lo sono. E in Emilia Romagna, se finti di essere quello che non sei, lo paghi. E il fatto che l'abbiano pagato tutti, perché comunque la stragrande maggioranza degli elettori comunque vota centro-sinistra, e gli altri, bene o male, si è salvato Salvini perché ha raccolto i no, perché ha fatto il botto tra i voti raccolti, certo, quindi esatto. questo non c'è. Devo dire che sul totale dei voti raccolti, posso chiedere a Gianluca un'impressione, perché siccome sul totale dei voti raccolti rispetto ai regionali l'unico che non perde sono i 5 Stelle, ma se lei dovesse a naso, e per quello che pensa lei, questo risultato dei 5 Stelle in Emilia Romagna, lei che dice? Beh, è fuori linea e vuol dire che continuano a tenere i 5 Stelle, la gente li vede come un'alternativa al casino, oppure no, Gianluca? Guarda, io gli ho dato il voto. Ah, allora, no, ma io non volevo chiedere questo. Ed era la prima volta che davo il voto al 5 Stelle. Allora, grazie. Comunque sono gli unici che danno un po' questa speranza di voler cambiare, con tutti i problemi che hanno al loro interno. Al loro interno, di leadership, di rapporto tra gli eletti e la leadership. Grazie Gianluca, sentiamo Gaetano da Napoli, non facciamo parlare solo quelli dell'Emilia Romagna. Gaetano, prego. Buonasera Giannino. Sì. Io mi rifacevo alla sua affermazione per quanto riguarda che il centro-sinistra sta prendendo tutte le regioni in Italia. Sì. Effettivamente è così, e io penso che la figura di Renzi in questo momento sia essenziale per questo progetto e che comunque continui questo trend. Io sono un elettore, sempre stato un elettore del centrodestra, sono una partita IVA. Sì. E finalmente con Renzi, in un partito di sinistra, è finita la contrapposizione tra le buste paga e le partite IVA, che era un po' il cavallo di battaglia portato avanti dai Bersani e tutti coloro, diciamo così. Renzi invece ha cambiato un po' questa idea, dando finalmente anche un po' di attenzione al mondo imprenditoriale, che non è quello degli evasori, che non è quello di chi non paga le tasse. Certo. E quindi dando una giusta attenzione anche a questo mondo, e secondo me quindi quando ci saranno le elezioni, se ci saranno elezioni politiche, Renzi secondo me potrà dire la sua in maniera molto forte. Insomma, questa è la mia idea, e ovviamente anche rifacendoci alle elezioni adesso, specialmente in Calabria, che comunque lei sa era un mondo molto legato alla destra. Sì. Quindi per una serie di motivi, per cui vincendo anche lì effettivamente questo trend, io penso che anche nelle prossime elezioni politiche, insomma, io per esperienza antichissima, quando militavo nel vecchio Partito Repubblicano, mi dovevo occupare dei partiti e girare in Italia, eccetera, eccetera. Guardi, in Calabria io vedo che nelle vittorie dell'una e dell'altra parte c'è un fortissimo. Calabria, non per una questione antropologica, per come funziona lì la pervasività molto opaca della pubblica amministrazione in una regione che tradizionalmente è andata di male in peggio nell'economia. Per colpa, secondo me, anche dello Stato, di come si è comportato lo Stato, c'è tutto un mondo di trasferimenti pubblici che si sposta un po' transumando su chi ha più chance di governare, perché lì è ovvio, i trasferimenti pubblici sono la parte più rilevante dei redditi. E devo dire, mi ha molto impressionato il successore della lista personale Oliverio rispetto allo stesso PD. Oliverio è una persona, Mario Oliverio, che ha vinto in Calabria, che viene dal vecchio PC, e la militanza in Defesa è lunghissima in tutte le diverse trasformazioni dal PC a oggi fino al PD. Nel successo della sua lista c'è da una parte un pezzo di sinistra che se non si riconosce oggi nel PD, ma c'è anche altro, per così dire. Ma noi a che ora chiudiamo? A 55, oggi battiamo tutti i record, la mia trasmissione oramai dura uno starnuto. Io ringrazio i tantissimi che hanno telefonato e non ho ancora tempo per mandarli in onda. Vediamo ancora se domani continuare, intanto continuate con Radio 24, appuntamento con me domani. La versione di Oscar.